24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. L'appuntamento di oggi con 24 ore in Europa si apre con la Libia. La guida della coalizione, che comprende diversi paesi europei, non è stata ancora definita. Da più parti, Italia compresa, si spinge per una guida NATO. Ma la Francia continua a frenare. L'Alleanza Atlantica, dice il governo Sarkozy, avrà un ruolo tecnico ma non di comando politico. L'intesa di principio ormai c'è, ma i particolari sono tutti da definire. Ieri Parigi ha accettato a malincuore che la NATO assuma un ruolo chiave nella operazione ed ora insiste affinché le decisioni politiche siano affidate a una cabina di regia a livello di ministri degli esteri, che potrebbe includere anche paesi non NATO e in particolare arabi. E questo nonostante la componente araba sin qui sia stata assai poco attiva. Anzi, dopo le critiche della Lega Araba, soltanto il Qatar è rimasto a disposizione della coalizione. Le cose si definiranno presto, aveva detto ieri Obama, e infatti il dossier già oggi è sul tavolo del Consiglio Nord Atlantico, formato dai 28 ambasciatori dei paesi dell'alleanza a Bruxelles, che è riunito da stamattina con l'obiettivo di definire e approvare un'intesa. La Germania comunque sembra decisa a continuare a evitare qualsiasi intervento in Libia, anche se sotto il cappello NATO. E nemmeno la Turchia, che forse adesso è il vero perno della situazione, è disposta a intervenire se non su altre basi. Tant'è che oggi ad Ankara è arrivato l'ammiraglio Stavridis, comandante supremo delle forze alleate in Europa, per tentare una trattativa. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Parigi conferma dunque un ruolo di primo piano nel condurre la crisi libica. Per capirne le ragioni sentiamo il commento di Giulio Sapelli, professore di storia economica all'Università di Milano. Ma è l'ultima occasione per la Francia di penetrare non solo nel Nord Africa, ma anche di tornare in Africa nera e di tornare una grande potenza imperiale, quale oggi vuole tornare ad essere, avendo la forza nucleare e soprattutto avendo poi anche degli interessi particolari. Non dimentichiamo che Total è l'unica major petrolifera mondiale a non avere interessenze in Libia. Sicuramente questo è importante, ma bisognerebbe guardare oltre, guardare a fianco della Libia, cioè che la Tunisia e l'Algeria, dopo la Francia, ha dei solidi interessi, dei soliti legami anche con i governi, hanno bisogno di stabilità. E poi soprattutto la Francia deve saldare i suoi conti con il colonnello Gheddafi, contro il quale combatté in Chad una lunga e nascosta guerra proprio negli anni in cui anche la Francia era intervenuta in modo disastroso, devo dire, nel corso del genocidio e del conflitto Hutu-Tutsi. Quindi questa questione non è soltanto libica, naturalmente la Libia è l'epicentro, ma va al di là della Libia e vuol dire che la Francia, a fianco dell'Inghilterra, naturalmente vuole ritornare ad avere un grande ruolo in Africa, in tutta l'Africa. Naturalmente tutto questo farà da contrappeso agli interessi cinesi e da questo punto di vista, dal punto di vista dell'Occidente, non può essere visto negativamente. Oggi e domani si riunirà il Consiglio europeo a Bruxelles, ma non affronterà il problema del comando delle operazioni militari. Lo hanno indicato fonti diplomatiche dell'Unione Europea alla vigilia dell'incontro tra i leader dei 27. Il conflitto in corso in Libia richiama alla memoria i bombardamenti sulla Serbia e il Kosovo. Sentiamo. Domani cade il 12° anniversario dell'inizio dei bombardamenti della NATO sulla Serbia e il Kosovo. Erano le 20:30 in punto di quel giovedì 24 marzo 99 quando i primi missili Tomahawk si abbatterono sul centro di Belgrado. Milosevic si sarebbe arreso nel giro di pochi giorni, disse l'indomani il portavoce dell'Alleanza Atlantica alla prima conferenza stampa di quello che venne definito un intervento umanitario in difesa della popolazione albanese del Kosovo. Passarono invece quasi 3 mesi e qualche migliaio di morti, per lo più civili, prima che Slobodan Milosevic si piegasse, e ci volle poi più di un anno per vederlo costretto a lasciare il potere. Se l'intervento dei volonterosi in Libia dovesse ricalcare quello del Kosovo e i tempi si dilatassero anche per Gheddafi, le conseguenze sarebbero gravissime non solo per gli insorti libici, ma in generale per la stabilità nel Mediterraneo. Elena Ragusin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dalla Libia al Giappone, l'incidente nella centrale nucleare di Fukushima ha riaperto in Europa il dibattito sul nucleare. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che più presto la Germania uscirà dal nucleare, meglio sarà. L'Italia invece ha deciso ieri, durante il Consiglio dei Ministri, la moratoria di un anno per il ritorno all'atomo. Come previsto, il governo rinvia di un anno il ritorno al nucleare. Con la moratoria decisa dal Consiglio dei Ministri vengono rinviate parte tutte le decisioni sulla localizzazione e la realizzazione di nuove centrali atomiche in Italia. L'esecutivo aspetta poi di conoscere i risultati dei test disposti dall'Europa dopo il disastro di Fukushima, ha fatto sapere il ministro dello sviluppo economico Romani. Il governo non procederà all'attuazione del programma nucleare se le iniziative già avviate a livello di Unione Europea non forniranno elementi in grado di dare piene garanzie sotto il profilo della sicurezza. Non c'è alcuna nube tossica in arrivo in Italia dal Giappone, ha spiegato dal canto suo il ministro della Salute Fazio dopo l'allarme arrivato dalla Francia. Ci sono delle normali masse d'aria che portano delle ridottissime quantità di radioattività. Non è neanche escluso che quando arrivino sull'Italia la quantità di radioattività sia praticamente così diluita che non si riesca neanche a misurare. Quindi escludiamo nel modo più assoluto che ci possa essere qualsiasi pericolo per i cittadini del nostro paese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nel Consiglio dei Ministri è stato approvato anche il decreto antiscalata per tutelare le imprese strategiche italiane. Il provvedimento arriva a seguito del braccio di ferro a distanza tra Francia e Italia per il controllo della Parmalat. I francesi di Lactalis sono saliti al 29% del capitale a un passo dal lancio obbligatorio dell'offerta pubblica di acquisto. Sulla questione Valeria De Rosa ha chiesto il parere dell'imprenditore Marco Rosi, presidente del gruppo alimentare Parmacotto. Non è che con Parmalat inizi la scalata di stranieri alle aziende italiane. Purtroppo è iniziata tempo fa, nell'alimentare in particolare, ma non dimentichiamoci gli ultimi fatti accaduti, Bulgari, tutto il gruppo Buitoni, non dimentichiamoci tutti i gelati, cioè tutta una roba che è storia italiana, che a mio avviso tutto discende dal fatto che non è mai stato ritenuto da nessun governo, destra, sinistra, centro, il che vuole, strategico il settore alimentare. Perché secondo lei c'è stato e c'è ancora questo errore, questa miopia? Perché evidentemente è una caratteristica politica italiana la miopia, e quello è uno. Due, sono stati sempre eventi o sistemi che hanno creato maggiore attenzione, ad esempio la meccanica con Fiat, quindi oscura quella miriade di aziende che compongono il mondo alimentare, ma che assieme fanno non soltanto il secondo comparto produttivo del paese, ma il primo per importanza, perché quello che si produce dall'industria alimentare italiana viene prodotto in Italia per il 99%. E sui rapporti Italia-Francia il commento da Parigi di Marco Moussanet del Sole 24 Ore. È il VMH che si compra Bulgari, EDF che sta per assumere il controllo di Edison, Groupama che vorrebbe entrare in prima fine fondiaria, Lactalis che allunga le mani su Parmalat, il finanziere Vincent Bolloré, azionista di Mediobanca e della stessa Premafin, che va all'attacco del vertice di generali, Sarkozy che bombarda la Libia marginalizzando il ruolo di altre nazioni, a partire dall'Italia. C'è quanto basta per chiedersi se da parte dei francesi non vi sia un'offensiva a tutto campo contro il nostro paese. In realtà non bisogna commettere l'errore di confondere il piano politico e quello economico-finanziario. Il primo riguarda un presidente in difficoltà sul piano interno che sta cercando di recuperare popolarità e l'Italia non c'entra. Quanto al secondo, i grandi gruppi francesi stanno facendo shopping in un paese dove le aziende sono troppo piccole per navigare da sole nel mare aperto della globalizzazione. Che poi tante operazioni avvengano nello stesso momento è solo casuale. Piuttosto che gridare al lupo, l'Italia farebbe bene ad affrontare i ritardi del proprio sviluppo. Difendere i settori strategici può essere una buona cosa, ma serve una strategia. Il titolo Parmalat è andato bene a Piazza Affari, dove ha guadagnato un punto percentuale sostenuto dall'approvazione del decreto antiscalate. Il servizio. Listini europei in leggero rialzo ieri in attesa di capire se il governo portoghese fosse ancora in grado di portare avanti il piano di risanamento del paese. A Milano il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,66%, il FTSE All Share lo 0,62%. In evidenza si è messa Unicredit, più 2,16%, che è il risultato miglior titolo bancario in Europa. Il mercato ha premiato i conti 2010 diffusi in mattinata dall'istituto che, nonostante la flessione del 22,2% dell'utile netto, hanno comunque fatto meglio delle attese del mercato. Unicredit, alla vigilia dei risultati, ha ufficializzato anche il suo ruolo nel salvataggio della galassia Ligresti. Le due compagnie assicurative, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, dovranno realizzare due aumenti di capitale per complessivi 800 milioni di euro. I titoli hanno reagito con nuovi cali in borsa. borsa. Fonsai ha ceduto il 3,54% e Milano Assicurazioni il 6,04%. Guido Maurino, da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. La Gran Bretagna ha presentato la manovra finanziaria 2011 e punta a portare la tassazione sulle aziende al 23%. Sentiamo il cancelliere dello scacchiere George Osborne. Today's budget is about reforming the nation's economy so that we have enduring growth and jobs in the future. La manovra punta a riformare l'economia del paese e assicurare crescita e posti di lavoro. Vogliamo fare il possibile per aiutare le famiglie contro il caro vita e il rialzo del costo del petrolio. Sappiamo bene quanto siano difficili oggi le condizioni economiche di molti. Ci siamo messi in cammino e dal soccorso siamo arrivati alla riforma, dalla riforma alla guarigione. Questa infatti non è una manovra che comporterà un aumento delle tasse, darà slancio alle imprese e supporterà l'export e gli investimenti. È un piano per creare, non per rimediare. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore a Londra. Questa è stata in certo senso la sorpresa del budget di Osborne, cioè questa decisione di raddoppiare quanto era previsto, cioè era già previsto un taglio dell'1% nella corporate tax, sarà un taglio del 2% subito e di un 1% all'anno nei prossimi anni per arrivare nel 2015 ad avere il 23% di corporate tax, che sarebbe la più bassa del G7. In chiusura, il governo del calcio europeo ancora Michel Platini rieletto alla guida della UEFA. Merci tout d'abord à vous, les associations nationales, mes amis des associations nationales. Merci du fond de votre cœur. La lingua gira bene come quel destro con cui, con le maglie di Francia e Juventus, incantò sui campi di calcio. Ma il prato verde a Michel Platini è sempre stato stretto. E allora ecco la presidenza dell'UEFA, il governo del calcio europeo e la rielezione per acclamazione al congresso nella sua Parigi. Arguzia e ironia agli assi segreti di Roi Michel per tenere a bada le mire dei grandi club e fargli digerire l'amara pillola del fair play finanziario. Polso di ferro poi per difendere gli spazi dei paesi emergenti, che contano parecchio poi quando si vota, e poi l'arma vincente, gli introiti che aumentano con l'UEFA che prevede un record degli incassi per il 2011-2012 che si concluderà con gli europei in Polonia e Ucraina, con introiti stimati a quasi 2 miliardi e mezzo di euro e un utile atteso a 116 milioni. E quando la torta è abbastanza grossa per tutti, difficile che qualcuno abbia lo sghiribizzo di cambiare il timoniere. Il futuro di Platini? Magari la presidenza della FIFA. Blatter ha già detto che a giugno si ricandiderà per l'ultimo mandato. Lo sfidante sarà il catariota Mohamed bin Amman. Poi, nel 2015, Roi Michel potrebbe davvero diventare imperatore del calcio mondiale. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore. Si chiude qui il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Una buona giornata da Paola Nania. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.